Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Alessandro Rack, regista del film Yai e Lenny, The Walking Liberty, al cinema dal 4 al 7 novembre 2021. Ben trovato Alessandro. Ciao, ciao, buonasera a tutti. Come lo presenteresti in breve? Che storia è? È la storia di due ragazzi che cercano la loro dimensione esistenziale in un paesaggio umano e non solo, che è completamente stravolto, perché il film è ambientato in una giungla post-apocalittica che ha ricoperto tutto il pianeta o forse solo il piccolo pezzo di territorio in cui è ambientata la storia. Come era nato il progetto? Lo spunto iniziale era un libro, Uomini e topi di Steinbeck, che in quel caso aveva come ambientazione la Grande Depressione americana. Da questo stimolo iniziale di due persone appunto che cercavano la loro dimensione esistenziale, lavorativa, il loro ruolo in una società di totale crisi, noi abbiamo cercato di estrapolare i concetti chiave e riportarli su uno scenario di crisi più ampio, come quello appunto di questo scenario post-apocalittico che abbiamo inventato, e sottolineare ancora di più la condizione della ricerca di una dimensione esistenziale attraverso due persone ancora più giovani, due ragazzini, due ragazzi. Cosa avevi amato di Uomini e topi? Diciamo che mi aveva commosso dalle prime righe la relazione tra questi due personaggi, in cui se ne vedeva uno più paziente e più capace magari di inserirsi all'interno di una società e un altro invece che presentava un grave ritardo mentale, quindi non le giuste premesse per essere accettato da una società e tanto più da una società in crisi. E questa cosa che io trovo emozionante, commovente, soprattutto il rapporto che c'era tra i due, abbiamo cercato di riproporlo però in una chiave diversa, perché qui c'è un personaggio femminile ed uno maschile. Il personaggio femminile non è altrettanto paziente, anzi è una ragazzina molto stizzosa, nervosa. Ecco, com'è stato il lavoro di immaginario per la trasposizione? Abbiamo scelto un tempo breve per elaborare sia il soggetto che la sceneggiatura, perché stavamo lavorando a un altro film e abbiamo dovuto fare un cambio di rotta improvviso in via di un'uscita cinematografica che presentava delle tematiche troppo coincidenti con quello che stavamo elaborando, e quindi ci siamo lanciati improvvisamente su questo progetto. L'abbiamo scritto in un tempo breve e in un tempo altrettanto breve siamo stati costretti poi a costruire tutto lo scenario e le scenografie di questo film, relativamente breve perché parliamo di cinema d'animazione, quindi stiamo parlando di 2 anni e mezzo di lavorazione almeno. Però abbiamo scelto questa ambientazione post-apocalittica, vabbè, oltre chiaramente perché esistono i temi ambientali e tante altre cose a cui siamo sensibili e che si sono inseriti, hanno intriso il film come tematica, ma dicevo, abbiamo scelto questa ambientazione anche perché, avendo un tempo breve di lavorazione e preproduzione davanti, questo ci avrebbe concesso uno spazio di fantasia maggiore e una libertà di movimento maggiore da un punto di vista creativo. Quello che risulta è anche una grande bellezza d'immagine. Ecco, che lavoro c'è stato? Beh, diciamo che abbiamo ricostruito un'intera giungla, partendo dalle singole foglie, fiori, o tutti i vari tipi di piante che possano andare dalla foresta pluviale alla macchia mediterranea, e questo ci ha permesso poi di lavorare in stile green designer per costruire questo mondo, quindi arredando il nostro territorio a piacimento tra elementi naturali e poi invece resti di un mondo che era oramai sepolto e sotterrato, con il riaffiorare di alcuni elementi che fanno presupporre che il territorio sottostante fosse la Napoli che noi conosciamo. Un'uscita di pochi giorni, dal 4 al 7, come l'avete pensata questa uscita? Queste sono strategie che competono più alla distribuzione che non a me. Io penso in una maniera un poco più classica e semplice della resistenza dei film in sala finché resistono, finché stanno sulle proprie gambe. Però capisco che chiaramente dopo il Covid in particolare esistano strategie di mercato e di proposizione del film che sono completamente diverse e che si sono riadattate, rimodulate su circostanze sociali completamente rinnovate. Com'è stato vivere questo periodo dall'inizio della pandemia, avere a che fare anche con questo figliolo, quest'opera, e vivere quello che abbiamo vissuto? La squadra della Madre Entertainment è una squadra piccolina, tutto sommato, rispetto a un film animazione che solitamente conta nell'ordine di centinaia di persone come personale proprio che lavora al film, come staff. Noi invece siamo una ventina o poco più ad aver lavorato questo film, perché riteniamo che sia forte l'elemento della compattezza del gruppo che possa sopperire a tutto, soprattutto possa sostituirsi invece a una mega organizzazione come quella che si può trovare all'interno di realtà come quella della Pixar e della Disney. E invece il Covid si è un po' tagliato le gambe in questo percorso, perché ci ha costretti a una disunione, a un allontanamento forzato che non avremmo voluto e che non è nello stile di quello che facciamo. Però tutto sommato la pandemia è venuta fuori in un momento in cui avevamo già un po' più strutturato il progetto, quindi ognuno di noi sapeva già abbastanza quello che avrebbe dovuto fare e senza necessità di coordinazione così complessa, e questo ci ha permesso di cavalcare comunque quel periodo della pandemia, di sfruttare volendo anche il silenzio che era calato come sipario su tutta la città, su tutte le città, e di trasformare quello in un tempo di concentrazione e di passione, nell'immaginarci ancora tutti quanti insieme a lavorare e poi un giorno tutti insieme a vedere il film al cinema, cosa che pare si stia realizzando. Diciamo anche che la realtà ha fatto irruzione nell'immaginario in qualche modo. È chiaro che noi abbiamo cercato sempre di fare in modo che i nostri film fossero pregni delle istanze sociali e di pensiero di quello che c'è intorno, del nostro momento storico. Poi sono verificate delle strane coincidenze, nel senso che il nostro film era già in scrittura, pieno di persone con mascherine o strumenti di disinfezione che giravano per questa giungla, e questa giungla che si era ripresa in qualche modo, la natura che si era ripresa con vigore i propri territori, sono delle cose che poi visivamente sono un po' realizzate durante il periodo del Covid, e questo ci ha chiaramente colpito, perché ma si è trattato chiaramente di una coincidenza, anche se chiaramente a perlustrare temi contemporanei magari si finisce spesso in questa casuale predizione di certe situazioni. Il film Yaya e Lenny di Walking Liberty al cinema dal 4 al 7 novembre 2021. Un saluto e un ringraziamento al regista Alessandro Rack. A presto! Grazie a te e grazie a tutti. A presto, buona serata. Con Pietro Liberati di Trend Film, che distribuisce il film A White White Day, Segreti nella nebbia, al cinema da giovedì 28 ottobre 2021. Ben trovato. Grazie. Raccontiamolo brevemente. A White White Day è un giallo psicologico islandese. Parla di un poliziotto in congedo da quando la moglie è tragicamente morta in un inspiegabile incidente d'auto. L'uomo non pensa quasi più alla morte della moglie, o almeno non la dà a vedere, finché non viene ritrovata una scatola che contiene alcuni effetti personali della moglie, che lo vogliono indagare su quello che era il passato sconosciuto della donna. È un film sorretto da una grande interpretazione di un volto abbastanza noto per serie televisive Netflix come Thread e anche per alcuni film hollywoodiani, oltre che per diversi film islandesi. È un autore molto prolifico, Ingvar Sigurdsson. Dove avevate incrociato il film? Inizialmente l'abbiamo mancato a Cannes quando è stato presentato nella Semaine de la Critique, l'abbiamo visto in un secondo momento, ci è stato proposto e ci è piaciuto subito, l'abbiamo però tenuto diciamo in congelatore per un anno, perché è un film immerso nelle nebbie e nelle atmosfere islandesi, quindi farlo uscire magari a ridosso della riapertura delle sale in primavera o in estate sarebbe stato abbastanza strano, sarebbe suonato strano, perché è un film più da autunno, da inverno, quindi abbiamo scelto appunto di mostrarlo tra ottobre e novembre. Cosa hai apprezzato maggiormente? Il film ha tantissime qualità, sia di pathos sia visive, ha molte trovate visive che catturano l'attenzione, non dico di più per non rovinare la sorpresa a chi lo vedrà. E anche dal punto di vista dello scavo psicologico è un film che conquista grazie al modo di descrivere i rapporti tra i vari personaggi. Chiaramente tutti i personaggi del film ruotano attorno al protagonista, e anche quello che è il suo rapporto con la nipotina di 12 anni è particolarmente toccante, perché è un rapporto che sembra di vivere in diretta durante la visione. Cos'altro sappiamo di questo regista? È un regista semi esordiente, la sua opera seconda. Questo film in particolare ha girato un gran numero di festival e ha vinto circa 20 riconoscimenti internazionali molto importanti, tra cui il miglior film al Festival di Torino, ha vinto un premio per l'interpretazione a Cannes, ha vinto come miglior film anche a Rotterdam, ha avuto anche una nomination agli European Film Award proprio per il miglior protagonista. All'estero che distribuzione ha avuto? In quali paesi è uscito? All'estero ha avuto una bella diffusione, soprattutto nei paesi nordici e in alcuni mercati dell'Australia, Indonesia, eccetera. E comunque è andato abbastanza bene in quasi tutti i mercati in cui è uscito. Quindi diciamo che è un film che si è fatto la sua fama nel corso del tempo, purtroppo un po' bloccata da quello che è stata la pandemia. Che forma distributiva avete scelto? Usciamo in 10 città inizialmente, ma già dal prossimo weekend, primo weekend di novembre, avremo delle nuove città da aggiungere, perché comunque il film già sta avendo un buon riscontro con la stampa italiana, e questa settimana abbiamo anche avuto l'onore di vederlo designato film della critica dal Sindacato Nazionale dei Critici Cinematografici, e quindi la sua fama, diciamo, si sta già espandendo. Ci dai tutti i vostri riferimenti web per saperne di più sulle sale? Il nostro sito è www.trendfilm.it e il nostro account Facebook è TrendFilmIt, e stessa cosa il nostro account Instagram TrendFilmIt, dove aggiorniamo periodicamente l'elenco delle sale. Il film è White White Day, Segreti nella nebbia, al cinema da giovedì 28 ottobre 2021. Un saluto e un ringraziamento a Pietro Liberati di Trend Film che lo distribuisce. A presto! A presto Federico, grazie. Con Leandro Picarella, regista del documentario Divinazioni, al cinema da martedì 26 ottobre e a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, venerdì 5 novembre 2021, alla sua presenza. Ben trovato. Grazie, grazie mille Federico. È un piacere, ci siamo sentiti varie volte negli anni. Raccontiamo questa storia, che documentario è? Non è un vero e proprio documentario, potremmo definirlo un film ibrido o una fiction du réel, come dicono in Francia, una finzione del reale. Quindi un film ibrido tra realtà e finzione. Parte da un'aderenza al reale, all'inizio del film, e in un percorso, in un viaggio ascendente, potremmo dire, arriviamo alla finzione pura. Per cui mescoliamo elementi reali e elementi di costruzione narrativa. Ed è un secondo capitolo sul tema del magico e del sacro nel sud del nostro tempo, che avevo cominciato appunto con Triogala, forse ricorderai, anni fa, e questo appunto è un secondo capitolo che in realtà cerca di raccontare come questo sapere ancestrale che lega un po' tutto il sud Italia si disperda, trovi delle sue derive nelle città e nelle periferie delle città. E seguiamo due storie parallele, una è quella di un vecchio mago e cartomante preso celebre un tempo dalle tv locali, negli anni 90, che torna alla vita civile dopo un lungo periodo di detenzione e che cerca di riadattarsi, diciamo, al mondo che ritrova, e l'altra storia parallela appunto è quella di Moka, un giovane artigiano rasta di origini marocchine, che cerca una propria spiritualità insieme ad altre persone proprio nell'organizzare feste, rave party nelle periferie delle città, nei boschi, ed è anche un fonditore di metalli, un artigiano che sperimenta appunto nel cuore di una fonderia i segreti dei metalli. Com'è nato il progetto? Dal fatto che appunto volevo realizzare inizialmente appunto una trilogia su questo tema, seguendo un percorso che dal piccolo paesino di montagna che raccontiamo in Triocala si spostasse appunto in città, si disperdesse un po' in città e si ritrovasse in una piccola isola. Questo secondo movimento riguarda proprio come questo sentimento, questo sapere, questa cultura ancestrale si modifichi, no? Nelle città, nella nostra contemporaneità. E quindi ho cominciato a fare circa 5 anni fa una ricerca rispetto ai maghi, ai cartomanti delle tv locali, fin quando non mi sono imbattuto appunto in Achille Sidoti, che è uno dei protagonisti, che oggi ha più di 70 anni, un uomo che ha scontato diverse pene per truffe e altro, che è appunto oggi provato nel fisico e nello spirito, tenta di continuare a fare quel lavoro, quell'unica cosa che sa fare, in qualche modo, che è appunto leggere le carte, fare dei consulti. Potremmo dire c'è sempre questa ambiguità tra l'aiuto alla persona e invece come l'obiettivo del guadagno. Mi sembrava un tema interessante. Addentrandoti in questa realtà, che impressione ne hai ricavato? Bella domanda. Rispetto al mondo dei cartomanti ho capito che queste figure esistono nel momento in cui delle persone ci credono, e le persone per crederci devono avere un bisogno o vivere un momento di difficoltà o di disperazione. Quindi è come se queste figure continuassero a esistere nonostante il tempo, la società, la crescita nella nostra società, insomma, abbia prodotto dei risultati notevoli, no? In termini di cultura, di allontanamento dalle superstizioni. Ma quello che ho capito è che è qualcosa che è profondamente radicato nelle persone, che quando non possono rivolgersi, non vogliono rivolgersi ai confessori, ai preti, agli psicologi, perché magari stanno vivendo delle situazioni poco piacevoli, trovano invece conforto, cercano aiuto in figure un po' ambigue. E io cerco di raccontare queste cose con un occhio non giudicante, perché quello che mi premeva era raccontare questa umanità, lo stato delle cose oggi. E invece per quanto riguarda il mondo dei ravers, delle feste, che in qualche modo incarna Moca, quello è un mondo molto affascinante che ha a che fare anche lì con la ricerca e il bisogno di spiritualità in un mondo occidentale globalizzato che tende a respingere tutto ai margini, no? Soprattutto in certe situazioni e contesti. Come l'hai pensato di strutturare questo lavoro? Da un punto di vista narrativo volevo che appunto si partisse da un'aderenza al reale per poi piano piano nel corso del film intrecciare vari elementi, quindi esplicitamente narrativi e di costruzione, senza mai distogliere lo sguardo, allontanarmi comunque dall'aderenza reale a una verosimiglianza, ecco, al concetto di verosimiglianza. A far da contorno alle storie che raccontiamo ci sono due elementi fondamentali che secondo me portano il film al di là della dimensione prettamente documentaristica o da documentario biografico, che è l'utilizzo di immagini d'archivio della Cineteca Sarda, stupende immagini d'archivio e home movies, quindi filmini di famiglia girati in Super 8 in 16 mm che ci riportano una dimensione prettamente ancestrale e ritualistica della nostra cultura, e insieme a queste anche la voce, i passi di Empedocle recitati da Mimmo Cutizio, cantastore, puntista, cuparo, siciliano di grande fama, che con la sua voce senza tempo appunto accompagnano queste immagini d'archivio, ma in realtà accompagnano il film, come a poterci comunicare la presenza di questo sentimento, no, legato al magico, al desiderio del sacro, che accompagna la nostra cultura, la nostra umanità da sempre, da un tempo immemore. Come l'avete pensata la distribuzione? Il film è stato completato a febbraio del 2020, quindi un mese prima che il mondo si chiudesse, no, su se stesso. A quel punto, insomma, eravamo contenti per il risultato che avevamo ottenuto, ma ci siamo trovati a vivere in questa sospensione, in questo limbo, come tanti altri film chiusi nel 2020, insomma, nel cinema italiano. E per cui abbiamo partecipato a dei festival importanti come IDFA ad Amsterdam, il Festival dei Popoli, il Trieste Film Festival, il Cine Mediterraneo di Montpellier. Siamo stati candidati ai Nastri d'Argento Doc, finalmente ai Nastri d'Argento Doc, e pensavamo, insomma, che comunque, visto che appunto i cinema si sarebbero riaperti nel 2021, avevamo paura che il film potesse essere dimenticato in favore dei nuovi film, perché poi il mercato è anche questo. Invece la Reading Room di Letizia Maragazzi, il cinema postmodernissimo, che è un cinema meraviglioso di Perugia, un gruppo di ragazzi eccezionali, tra tutti mi sento di citare, non me ne vogliono gli altri perché non ricordo tutti i nomi, Ivan Frenguelli. Stanno facendo un lavoro straordinario, hanno voluto prendere il film e accompagnarlo in un tour praticamente in tutta Italia, che è partito il 26 ottobre da Palermo e che continuerà per tutto il 2021. Quindi torneremo di nuovo in Sicilia, abbiamo date chiuse fino al 15 di novembre e continueremo anche, sicuramente anche, ce lo stanno chiedendo anche per altre date. Insomma, sta andando abbastanza bene, insomma, non era previsto, e questo ci fa molto molto piacere, ed è importante che esistano realtà indipendenti della distribuzione, soprattutto come Reading Bloom e il cinema postmodernissimo, insomma, è una grande cosa. Ci lasci dei riferimenti web per saperne di più? Potete seguire le pagine social, quindi Facebook e Instagram di Reading Bloom e del cinema postmodernissimo, e poi la mia pagina Instagram è quella di Kumun, sia Facebook che Instagram. Kumun è la società di produzione di cui faccio parte insieme a Luca Scarabelli e Andrea Osa Di Pasquale, che ha prodotto il film insieme a Rai Cinema. Il documentario Divinazioni al cinema da martedì 26 ottobre e a Roma al Nuovo Cinemaquila venerdì 5 novembre 2021. Un saluto e un ringraziamento al regista Leandro Picarella. A presto! A presto, grazie a voi, grazie sempre a Radio Onda Rossa. Ciao Federico. con Giulio Casadei, direttore artistico della 27esima edizione del Mad Film Festival a Roma e online dal 5 al 14 novembre 2021. Ben trovato. Buongiorno. Lo descriviamo per chi non lo conoscesse? È un festival storico di Roma, lo definirei un patrimonio della città, della regione, è nato 27 anni fa per offrire visibilità, sostegno al tutto il cinema dell'area mediterranea, cioè dei paesi che compongono il bacino dell'area mediterranea, sia la sponda nord, ovvero il sud dell'Europa, i Balcani, che la sponda sud, Maghreb, Medio Oriente. Il programma di quest'anno è particolarmente ricco, conta in totale 86 film articolati in 10 sezioni, ben 35 paesi rappresentati, 53 film in anteprima, prima e 30 ospiti internazionali. Tra i temi forti di questa edizione, l'incontro con l'altro, il desiderio, la sessualità, a partire dal nostro film di apertura, Una storia d'amore di desiderio, coproduzione franco-tunisina, opera seconda di una talentuosa e giovane regista Leila Bouzid, un film che racconta una storia d'amore, di educazione sentimentale e sessuale fra due ragazzi a Parigi che studiano letteratura araba erotica. Sempre seguendo questa linea tematica, cito il film libanese, sempre in concorso, Death of a Virgin and the Sin of Not Living di George Peter Barbari, un film polifonico introspettivo su quattro ragazzi pronti a perdere la verginità in un bordello in una cittadina sulla costa libanese. O ancora cito Casablanca Beach di Nabil Ayouch, nuova opera di questo importantissimo regista marocchino. Il film era a Cannes in concorso, il film segue un gruppo di ragazzi in un centro culturale a Casablanca che cercano di affrancarsi dal peso delle tradizioni grazie alla cultura hip hop. E cito anche il film sloveno del concorso Sanremo di Miroslav Mandic, che racconta di un anziano affetto da Alzheimer, ospite di una casa di riposo, che ogni giorno si innamora di una donna e ogni giorno se ne dimentica. Ecco, questi sono solo alcuni degli esempi della ricchezza di un programma che affronta tantissime tematiche molto diverse l'una dall'altra e anche da punti di vista anche estetici totalmente diversi. Come sarà strutturato tra le varie location e la parte online? La parte in sala inizia al Cinema Savoy il 5 novembre alle 20 con la cerimonia di apertura e si terrà al Savoy fino all'11 novembre, la sera dell'11 novembre, quando si terrà la cerimonia di premiazione. Dall'11 al 14 novembre saremo al nuovo Cinema Aquila al Pigneto, mentre lungo tutto l'arco del festival tra il 5 e il 14 ci saranno una serie di eventi realizzati in altre location, eventi tutti gratuiti, sia al Museo Macro che alla Casa delle Letterature ad esempio. Poi abbiamo invece su My Movies, la buona parte del programma sarà presentato tra il 6 e il 14 novembre. Per tutti i dettagli riguardo le varie forme di abbonamento e le tariffe, invito i nostri ascoltatori ad andare sul sito ufficiale del festival. Per quanto riguarda l'area mediterranea, quali sono le tematiche più frequentate? Quest'anno un aspetto interessante è che l'impressione è che non ci siano film evidentemente o direttamente frontalmente politici. Direi che c'è un ritorno forte a una dimensione intimista dove si interroga l'umano, la persona, a partire dall'incontro con l'altro, di come questo incontro, che può essere di varia natura, in qualche modo risignifica, ripensa, rimette in discussione tanto l'identità di sé quanto il proprio ruolo in una dimensione collettiva. Poi naturalmente il programma è estremamente ampio e variegato, quindi ci sono anche opere più direttamente politiche che affrontano temi di stringente attualità legati alla questione mediterranea. Penso ad esempio all'Europa di Haider Rashid, presentato nella sezione Perle, che è una sezione dedicata al cinema indipendente italiano, ed è un film che racconta in maniera molto forte di un immigrato clandestino che segue la rotta balcanica per arrivare in Europa, una sorta di survival movie legato all'immigrazione. Oppure abbiamo ancora un film molto politico, è il film israeliano Aezmi di Nadav Lapid, un autore possiamo considerare un maestro del cinema contemporaneo. Con questo film realizza un'opera estremamente polemica contro il governo di Netanyahu e contro la censura nel suo paese. Poi, a parte questi, sì, abbiamo molti film anche che affrontano i temi legati ai legami e alla memoria familiare, penso a Mariner of the Mountains, nuova importante opera del regista brasiliano Karim Aynous, regista brasiliano ma di origini algerine. Il film è un diario personale del suo viaggio attraverso l'Algeria fino in Kabilia, sulle tracce della memoria paterna ma anche materna. E poi ancora penso a Good Mother, Bonne Mère di Afia Erzi, l'attrice che tutti ricordano in Couscous di Kechiche, che qui realizza il suo secondo film da regista ed è un film omaggio alla madre e alla sua città di origine, cioè Marsiglia. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web? Vi consiglio di seguire tanto la pagina ufficiale Facebook del Nancin Festival, che la pagina Instagram e il sito www.nancinfestival.org, e poi per qualsiasi informazione, dubbio, ad esempio per la cerimonia di apertura, che è una serata ad inviti, potete scrivere a media@nancinfestival.org per poter prenotare un posto in esclusiva. Per tutto il resto comunque vi rimando appunto ai nostri canali ufficiali. Aggiungo solo un'ultima cosa sul programma, perché mi sembra importante, sui due paesi ospiti d'onore di quest'anno, che sono Marocco e Slovenia. È una logica che il festival segue sempre, quella di rappresentare un paese della sponda nord e un paese della sponda sud, e quest'anno sono appunto Slovenia e Marocco. Per la Slovenia abbiamo realizzato una vetrina speciale dedicata tutta a un cinema femminile sloveno contemporaneo, con ben 8 film realizzati da donne negli ultimi anni, mentre invece sul Focus Marocco abbiamo uno splendido film che racconta, attraverso materiali d'archivio, degli anni 70 in Marocco, della vivacità culturale e politica del Marocco di quegli anni, e un omaggio al nostro premio alla carriera Fawzi Ben Saidi con un film che si chiama Death for Sale, uno dei suoi film più belli e conosciuti, che programmeremo sabato 6 alle 17.30 al Cinema Savoy. 27esima edizione del Mad Film Festival a Roma e online dal 5 al 14 novembre 2021. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Giulio Casadei. A presto! Grazie, un saluto. Con Antonio Flamini, direttore artistico della 10ª edizione del Nordic Film Fest a Roma, Casa del Cinema e online, dal 5 al 9 novembre 2021. Ben trovato! Ben trovato a te e a tutti gli ascoltatori. Per chi non lo conoscesse, cos'è? La rassegna che promuove la cinematografia e la cultura dei paesi nordici e che oramai si è affermato nel panorama romano e anche nazionale come appuntamento imperdibile della stagione cinematografica. Siamo arrivati alla 10ª edizione, un traguardo importante, e devo dire che più che direttore artistico io sono un po' il coordinatore artistico di tutta la manifestazione, perché è organizzata a cura delle 4 ambasciate nordiche che sono presenti in Italia, cioè quella di Danimarca, di Finlandia, di Norvegia e di Svezia, e l'ambasciata d'Islanda di Parigi, che rappresenta anche l'Italia. In collaborazione con il Circolo Scandinavo si svolge alla Casa del Cinema venerdì, sabato e domenica prossimi, per poi continuare lunedì e martedì online sulla piattaforma FestivalScope. Quante sono le opere presentate? Ci sono 2 film danesi, 2 film finlandesi, 1 film islandese, 3 film norvegesi e 3 film svedesi, più il programma del cinema del Circolo Scandinavo, che è 10 corti per 10 anni. Quindi in totale sono 11 lungometraggi e 10 cortometraggi. È prevista anche la presenza di autori e autrici? Noi abbiamo previsto, soprattutto per la serata inaugurale, la presenza dei 2 registi del bellissimo documentario biografico Il ragazzo più bello del mondo, e sarà presente anche l'attore protagonista, che è Bjørn Andersen. Praticamente è l'attore che ha interpretato il famoso Tazio nel film di Luchino Visconti, Morte a Venezia, che ha impersonificato, diciamo, la massima bellezza, e noi lo rincontriamo dopo 50 anni. Come saranno strutturate le giornate? Noi normalmente cerchiamo di proiettare tutti i giorni film di paesi diversi, quindi a parte il primo giorno che è dedicato appunto all'inaugurazione, ci sarà una proiezione di inviti e poi una aperta al pubblico, le altre giornate prevedono 3 proiezioni al giorno, ogni volta in 3 paesi diversi, per poi passare alle proiezioni online, dove verranno proiettati 2 film norvegesi e 2 film finlandesi. Voglio ricordare che tutte le proiezioni sono ad accesso gratuito, sia in presenza che online. È esclusa la proiezione inaugurale, che è di inviti, ma noi subito dopo la replichiamo con una proiezione dello stesso film aperta al pubblico. Qual è lo stato dell'arte del cinema nei paesi del Nord Europa? Al di là del fatto che veniamo da 2 anni di pandemia, infatti noi tra l'altro siamo molto contenti di ritornare in presenza, perché l'anno scorso purtroppo siamo stati costretti a fare la manifestazione solamente in streaming, solamente online. Quindi il cinema nordico gode di buona salute, perché è un cinema interessante, frutto di coproduzioni, collaborazione tra i diversi paesi nordici e che viene distribuita a successo un po' in tutto il mondo. Quindi è una cinematografia molto interessante. Sono 10 anni che noi facciamo durante il festival il Tutto Esaurito, la Casa del Cinema, anzi addirittura c'è gente che purtroppo non riesce ad entrare perché c'è un grandissimo interesse per la cinematografia, per la cultura dei paesi nordici e per l'atmosfera che in qualche modo si rivive durante la manifestazione. Ci sono tematiche più frequentate? In generale noi quest'anno vogliamo riprendere, visto che sono 10 anni, un po' le tematiche che hanno caratterizzato la manifestazione nel corso appunto di questi anni di grande successo. E quindi ci sarà un po' di tutto, dalle storie d'amore alla fantascienza, per finire al noir, le storie biografiche. Insomma, ci sarà un po' di tutto, quindi sicuramente accontenteremo tutto il pubblico che ci aspetta con ansia, proprio perché l'anno scorso purtroppo abbiamo dovuto saltare questo appuntamento in presenza e l'abbiamo fatto solamente online. Ci dai tutti i riferimenti web? Il nostro sito è www.nordicfilmfestroma.com e lì si possono trovare tutte le informazioni. Poi c'è il sito della Casa del Cinema, ma comunque tutto è inserito nel nostro sito, comprese le indicazioni del programma, sia in presenza che online. La versione online cosa rappresenta rispetto a quella in presenza? Dà la possibilità di accesso a 400-500 persone, non solamente di pubblico romano, ma può essere fruita un po' da tutta Italia. Quindi è un esperimento un po' anche per allargare il nostro pubblico. Comincerà domenica pomeriggio per andare avanti lunedì e martedì. I film che verranno proiettati attraverso la piattaforma Festival Scope saranno 4, 2 film norvegesi e 2 film finlandesi. 10ª edizione del Nordic Film Fest a Roma, la Casa del Cinema, è online dal 5 al 9 novembre 2021. Saluto e un ringraziamento al direttore artistico Antonio Flamini. A presto! Grazie, vi aspettiamo alla Casa del Cinema per il Nordic Film Fest 2021. Con Maria Luisa Celani, direttrice artistica della 7ª edizione dello Slow Film Fest, a Roma, Antrodoque, Acqua Pendente e anche online, dal 5 al 15 novembre 2021. Ben trovata! Ciao, ciao Federico e ciao a tutti i radioascoltatori. Sì, anche quest'anno Slow Film Fest, 7ª edizione, dopo l'edizione speciale dell'anno scorso causa pandemia solo in streaming, quest'anno torniamo in sala, ma manteniamo anche la nostra parte streaming, quindi dal 5 al 15 lo Slow Film Fest e dal 9 al 15 in streaming. Sono 22 opere, all'interno della programmazione c'è anche una anteprima nazionale e ci sono sempre i temi che riguardano il focus dello slow, che sono l'ambiente, i diritti umani, i temi di genere e la memoria. Raccontiamo anche com'era nato tutto questo progetto. È nato 7 anni fa a Tolfa, dialogando con l'amministrazione locale, avevano voglia di fare una manifestazione a Tolfa che potesse mettere in evidenza il territorio. Da lì, documentandomi, è nata questa combinazione con Città Slow International. Nel mondo esiste questa associazione, si chiama Città Slow International, dove aderiscono circa 200 comuni di tutto il mondo, è un'iniziativa italiana, sono comuni con massimo 5.000 abitanti. E la loro prerogativa è rispetto dell'ambiente, della memoria, delle differenze e da questi punti cardine di Città Slow International di cui Tolfa fa parte è nato lo Slow Film Fest, che all'inizio era a Tolfa. Poi per necessità organizzative abbiamo trasferito il festival a Roma, Antrodoco e ad Acqua Pendente, dove si svolge ormai da 3 anni. Come si articoleranno le giornate? Noi avremo l'apertura a Roma all'interno dello spazio Scena, l'ex film studio recuperato dalla Regione Lazio. Avremo questa apertura con questa anteprima del film Apenas el Sol, un film che rappresenta il Paraguay alla selezione dei film che andranno agli Oscar ed è una anteprima assoluta in Italia. Tutte le opere sono in lingua originale con i sottotitoli in italiano. Poi la sera proseguiremo con un'altra anteprima, più che altro un'anteprima romana, di questo film prodotto da Jacopo Fo per la regia di Jacopo Quatierno. È un documentario, si intitola Mankind Man. Sono due temi, uno riguarda il tema della memoria, Apenas el Sol, l'altro Mankind Man, il rapporto con l'ambiente. Poi proseguiremo dal 5, il 6 saremo ad Antrodoco, torneremo a Roma il 9 sempre a Spazio Scena con un convegno sul Green Movie, per poi proseguire ad Acqua Pendente il 12 e il 13 e tornare a Roma sempre a Spazio Scena per chiudere la manifestazione in presenza. Parallelamente in streaming, sempre con la collaborazione con la piattaforma OpenDDB, avremo una serie di titoli che presenteremo dal 9 al 15. Sia le proiezioni che le attività parallele sono tutte a partecipazione gratuita. Attività parallele, oltre ai due convegni, uno a Roma e uno ad Acqua Pendente, avremo anche due passeggiate. Il 13 novembre ad Acqua Pendente, in collaborazione con la cooperativa La Peregina, faremo una passeggiata al Bosco del Sasseto, mentre il 14 a Roma, in collaborazione con Ottavo Colle, faremo una passeggiata intorno al quartiere Testaccio e Ostiense. Il tema è l'archeologia industriale. Ci potete seguire sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale Instagram. Avremo anche un sito a brevissimo, spero prima dell'inizio del festival, slowfilmfest.it. Settima edizione dello Slow Film Fest nel Lazio e online dal 5 al 15 novembre 2021. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Maria Luisa Celani. A presto! Grazie, grazie a tutti. Vi aspettiamo al cinema, in sala e in streaming. Grazie mille. Grazie Federico. Con Vincenzo Vita dell'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico per presentare il documentario Tekosher, il partigiano orso di Dario Salvetti a Roma, a Scena, ex Film Studio, sabato 6 novembre 2021. Ben trovato. Grazie, grazie a voi anche per la sensibilità su un argomento non proprio facilissimo e un po' messo ai margini della comunicazione ormai, quindi con piacere facciamo questa chiacchierata. È alle 17 sabato, nel luogo storico della cinematografia militante romana, l'ex Film Studio, ora Scena, rilevato dalla regione, ma sempre in via Dorti da Liberto, vicino alla Casa delle Donne tra l'altro. Cos'è questo lavoro? Intanto c'è una curiosità, a volte il destino si incarica di combinare degli ingredienti diversi, perché Dario Salvetti, che è il filmmaker regista di questo docufilm molto bello, è anche il leader, se posso usare questa terminologia non simpatica, della lunga vertenza, molto importante anche simbolicamente, della GKN di Firenze. E quindi nella doppia veste di leader sindacale e di filmmaker regista, Dario Salvetti, l'archivio ha aperto una parentesi, sta dando una mano anche all'Ernesto, all'Assoluto Ernesto Di Martino, sempre a Salvetti, per costruire un docufilm sulla lotta della GKN, che è di grande importanza in tutti i sensi. Docufilm che racconta in modo molto serio, con un certo distacco narrativo, quindi senza eccessi, senza polifonie, diciamo così, troppo sentimentali, racconta una storia emblematica, non notissima. Il giovane Dario Salvetti, dalla cintura, insomma, fiorentina, si reca nella zona al confine tra la Siria e l'Iraq per combattere l'ISIS, cogliendo la gravità del terrorismo dell'ISIS proprio nei confronti delle popolazioni locali, in particolare di quelle curde, e con altre volontarie e volontari entra quindi in una situazione tra virgolette posso dire, di lotta partigiana. Pieno di volontà, lascia tra l'altro una lettera veramente struggente in cui prefigura l'ipotesi di una sua morte sul campo, e la lascia e verrà sicuramente letta dal padre Alessandro, che sarà un po' l'ospite d'onore di questa proiezione. È un docufilm di qualcosa meno di un'ora che passa in rassegna, diciamo così, i vari momenti di questa esperienza di Dario Salvetti, il suo nome di battaglia che dà il titolo al docufilm, e una realtà che noi, non parlo per voi, forse siete tra le eccezioni, la radio, però insomma per noi occidentali è come una sorta di periferia del mondo, no? Di cui si parla ogni tanto. Pensate all'Afghanistan, primissime pagine dei giornali, dei telegiornali, prima notizia per alcuni giorni, ora la notizia è scomparsa. Ecco, noi abbiamo il diritto dovere di occuparci di questa lunga vicenda del terrorismo islamico, che non è solo un accidente, è un pezzo di un discorso più vasto sulla geopolitica di quel settore del mondo. Ecco, ne parleranno Stefania Limiti, che è una scrittrice e giornalista che si occupa da anni di temi mediorientali, Palestina, ed è molto attenta a questi argomenti, il rappresentante Ilmaz del Orkan del Kurdistan, della struttura diciamo di informazione del Kurdistan in Italia, l'archivio ovviamente saremo lì presenti parlando, chiarendo anche perché l'archivio vuole rinverdire una sua vecchia pratica di documentazione sul campo anche attraverso queste ipotesi. Dario Salvetti, il regista, e avremo anche interventi di persone interessate. Avremo Antonio Medici, che oltre a dirigere il premio intitolato a Cesare Zavattini, dirige la scuola d'arte intitolata Volonté. Perché Antonio Medici è molto bravo nel consiglio di amministrazione dell'archivio, ma anche perché, come suggerisce Massimo Torelli, che è un po' l'animatore di questa iniziativa da Firenze, si potrebbe immaginare un premio intitolato a questo giovane eroe civile di cui vogliamo ricordare un po' la storia. Ecco, questo è il senso dell'iniziativa di sabato. Che cosa hai apprezzato di quest'opera? Il racconto asciutto, il racconto non melenso, privo di quella retorica che talvolta i racconti in memoria hanno. Figuriamoci, le morti sono terribili, ma c'è un tentativo di, tra virgolette, va facendo finta di essere un cinefilm, di oggettivizzare, diciamo, la tragedia, cercando di trasmettere l'idea di fondo, che poi fu quella di Orsetti, e cioè non bisogna mai smettere di resistere contro il male, bisogna continuare a sperare, a lottare, solo la lotta dà la cifra della nostra esistenza, cioè vivere ha un senso se si lotta. Il documentario Tekosher, il partigiano orso di Dario Salvetti, a Roma, a scena all'Ex Film Studio sabato 6 novembre 2021. Saluto e ringraziamento a Vincenzo Vita dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico. A presto! Grazie a voi, a prestissimo! Con Fabrizio Ferraro, regista del film La Veduta Luminosa, a Roma, al Palazzo delle Esposizioni, sabato 6 novembre 2021. Ben trovato. Ciao, buon pomeriggio. Ci racconti di cosa ti parla? Ha una storia molto basica, diciamo come tutte le storie, di esseri umani semplici che cercano di stare al mondo e di cercare di esaudire un po' i propri desideri. Un po' come tutte le storie, anche quelle complicate, alla fine si basa tutto su questo. È un regista che ha un progetto sui film su Hölderlin e incontra un assistente di produzione che cerca di aiutarlo alla realizzazione di questo progetto, e quindi partono verso i luoghi hölderliniani, quindi i luoghi della Foresta Nera, di Tubinga. Com'era nato tutto? Non si sa mai come nascono le cose. Hölderlin mi ha accompagnato da parecchio tempo, ci ha comparso in altre citazioni, in altre forme, in altri progetti, in altri film, addirittura in Quando dal cielo, il titolo è tratto da un suo poema, e c'è Bruno Ganz che legge la poesia in tedesco, e poi piano piano le cose si sono affaccendate e sviluppate. Comunque è un autore che andrebbe letto non solo per la sua forza poetica e per la sua visione, ma anche chi si occupa di immagini. I suoi testi sono fondamentali, andrebbero insegnati nelle scuole di cinema perché insegnano a capire cosa veramente vuol dire vedere. Ecco, cosa rappresenta per te lui? Ma nulla, si fanno dei progetti, si cerca di capire cosa possa essere interessante in rapporto al mondo che viviamo e quindi cosa possa un po' demolire cliché, luoghi comuni di cui siamo invasi, anche con queste certezze, ognuno ha le proprie verità, mentre il mondo comunque è più complesso e quindi quando ci sono dei progetti che muovono tutto questo è giusto portarli avanti con determinazione. Stilisticamente, come hai deciso di strutturare il lavoro? Dipende, sai, non si parte mai a priori, non c'è mai un'idea a tavolino, anche se poi insegnano questo, si mettono insieme degli elementi, in questo caso c'è una foresta con quello che vuol dire, sia dal punto di vista esperienziale, sia dal punto di vista visivo, storico. Ci sono delle persone che devono muoversi ed esplorare un luogo e quindi questo inevitabilmente poi influenza man mano il modo in cui la macchina cinema cerca di starci e aprire anch'essa una relazione. C'è mai un'idea predeterminata. Questo titolo? Viene direttamente da Olverlin, è l'ultimo suo poema, si intitola La Veduta, traduzione in italiano, che ha scritto a 3 giorni prima della morte. Uno di questi ultimi periodi in cui lui si chiamava Cardanelli, considerati periodo meno interessante da alcuna critica, di vaneggiamenti, ma in realtà sono di una lucidità pazzesca e appunto, come ti dicevo prima, senza dilungarmi troppo, pongono proprio il problema anche di che cosa vuol dire e appunto avere, dare al mondo, avere una visione di sé. È una figura riconosciuta che sta lasciando un segno nella nostra cultura? Olverlin è uno dei più grandi poeti che ci sono stati, la stessa importanza di Dante per noi, in Italia forse è meno conosciuto, però stiamo parlando di poeti che rappresentano un po' tutto quello che abbiamo, al di là che poi ce ne dimentichiamo e pensiamo che non siamo importanti, è l'unica cosa che resta di noi al mondo e qui ci permette anche di parlarci un po' anche come i grandi pittori, i grandi musicisti, di questo poi alla fine ci troviamo a parlare. Hai pensato a una forma distributiva per il tuo film? È la solita storia, nel senso sì, ci sono degli appuntamenti, all'estero ho girato di più dell'Italia, questo ormai è una cosa consueta, e c'è un po' di confusione in giro, però si trovano gli appuntamenti, sì, adesso sta anche a Perugia, è postmodernissimo, abbiamo detto, in tenitura, quindi ben venga che incontri e accolga altro pubblico, altra gente. Per saperne di più, ci sono dei riferimenti web? Penso di sì, non me li chiede, non li so. Ormai quelle parole magiche ci arriva a tutto, quindi di citare la parola magica qualcosa uscirà fuori. Il film La Veduta Luminosa, a Roma, Palazzo delle Esposizioni, sabato 6 novembre 2021. Un saluto e un ringraziamento al regista Fabrizio Ferraro. Alla prossima! Ciao, grazie, alla prossima. Buon pomeriggio. Con Giovanni Piscaglia, regista del documentario Napoleone nel nome dell'arte, al cinema dall'8 al 10 novembre 2021. Ben trovato! Ben trovato a te, grazie mille. Che racconto è? Si tratta di un racconto in chiave documentaristica di un personaggio che ovviamente non può che essere ridotto per temi, perché Napoleone sappiamo bene che porta con sé un universo di storie che noi però abbiamo cercato di trattare soprattutto puntando all'arte, al modo in cui lui l'ha utilizzata per propagare il mito della sua personalità e anche l'arte che lui ha spoliato, ha preso dai paesi che ha conquistato e che poi però ha raccolto in musei che sono stati i primi musei di stampo moderno che oggi conosciamo, come il Louvre soprattutto, ma anche come la Pinacoteca di Brera, che è di fatto il Louvre d'Italia, voluto da Napoleone proprio con questa idea che raccoglieva il meglio di ciò che Napoleone aveva preso in giro per l'Italia e che però non aveva portato al Louvre, e quindi la fondazione si costituisce come uno dei primi musei nazionali europei di stampo moderno. Si può dire anche che Napoleone utilizzò l'arte anche come strumento di lotta politica, di trattativa? Sicuramente sì, perché lui come indennizzo per i paesi, i luoghi che lui conquistava, pretendeva le migliori opere d'arte. E poi con l'andare del tempo molti paesi, con la minaccia di venire assediati, addirittura donavano opere che poi ritornare proprio per questo motivo, perché donazioni, puoi immaginare che cosa significasse, ma sulla carta risultavano donazioni. Sì, senza dubbio Napoleone aveva come finalità quella di raccogliere la migliore arte per portarla in Francia e per così Francia una sorta di polo incomparabilmente importante che raccoglieva il meglio dell'umanità e quindi faro dell'umanità essa stessa. È anche vero che storicamente i patrimoni artistici sono sempre stati saccheggiati. Eh sì, purtroppo infatti non è stata l'unica occasione, ricordiamo chiaramente insomma all'epoca dei vari imperatori romani, il sacco di Costantinopoli eccetera, però devo dire che si ritiene che le spoliazioni napoleoniche siano state la più grande movimentazione di opere d'arte nella storia, anche perché avevano proprio un passo organizzato molto capillare. Quindi con una sistematicità. Sì, esattamente. Com'è nato il progetto? È stato abbastanza travagliato, nel senso che abbiamo girato in gran parte in piena epoca Covid, addirittura al Louvre eravamo il giorno in cui Macron annunciava il lockdown, quindi poco assolutamente invalicabile, eccetera. Questo ha significato un po' di difficoltà per quanto riguarda la gestione delle autorizzazioni dei musei, delle città, insomma, dare molte informazioni in più. E purtroppo uscire al cinema il maggio, che sarebbe stata la data perfetta, perché cadeva proprio esattamente in quel giorno il bicentenario della morte. Tuttavia, vuol dire che sai com'è, quando i progetti finiscono poi ti rimane tutto il bello, un po' come a scuola, che non ti ricordi i compiti in classe, le interrogazioni, ti ricordi solo le gite e i momenti con i compagni di scuola, insomma. Adesso chiaramente, dopo un lungo percorso, si vede il risultato, però di certo è stato un percorso molto lungo, anche per quanto riguarda la città, delle storie da raccontare, dei temi, perché chiaramente Napoleone è un universo, non si poteva raccontare con al grafico, non avremmo neanche mai voluto fare, abbiamo cercato di enucleare dei temi forti e intorno a questi dell'arte, ma che parlasse anche dell'uomo Napoleone, oltre alla leggenda. Ecco, un po' lo stavi anticipando. Come lo avete strutturato? Come hai deciso di lavorare? Beh, è stato ovviamente il frutto di tante conversazioni con Lidi Gnocchi e Matteo Moneta, che sono gli sceneggiatori di Aspetto il soggetto. Chiaramente abbiamo dovuto studiare molto, abbiamo voluto che l'Italia fosse protagonista, abbiamo voluto coinvolgere particolarmente delle istituzioni importanti milanesi e quindi anche raccontare la Milano napoleonica, che comunque ha detto anche di civiosi francesi, Milano è la città che più di tutte mantiene saldo un legame con Napoleone, il suo mito. E quindi c'è molta Milano, c'è la Pinacoteca di Brera, c'è il Duomo di Milano, nel quale poi abbiamo girato delle parti recitate di Jeremy Irons, che è stato il teatro dell'incoronazione di Napoleone re d'Italia, e quindi l'Italia anche come uno dei paesi più spoliati, diciamo. Quindi siamo andati a vedere anche i tanti capolavori, anche per esempio a Roma, di scultura, che sono stati portati via, che poi sono ritornati, ma d'altro canto abbiamo anche approfondito molto il modo in cui Napoleone ha dato avvio a tante opere di tutela, anche scoperte archeologiche, come nel caso del Foro Romano, che oggi tutti possiamo ammirare, anche e soprattutto grazie all'opera che Napoleone ha fatto. Quindi certamente c'è un'ambivalenza, volevamo suscitare anche un po' un dibattito, perché tutti sanno che Napoleone ha spogliato, un po' meno di persone conoscono le opere però anche pro arte italiana che Napoleone ha poi svolto. Sicuramente gli strascichi delle manovre napoleoniche nei confronti dell'arte continuano ancora oggi, perché comunque la Francia detiene grossa parte di quei capolavori spogliati proprio da Napoleone. Il rapporto c'è tra i paesi che originariamente avevano quelle opere d'arte e le istituzioni francesi oggi? Non saprei, di certo posso dire che l'Italia rimane scottata ancora. Tuttavia occorre anche sottolineare che se tanti capolavori non sono tornati è stato anche perché il congresso di Vienna, non tutti i paesi hanno esattamente fatto le pressioni giuste per riavere le opere. Uno di questi è stato lo Stato Pontificio, che ha agito in maniera abbastanza ambigua, e a causa proprio di questo tante opere del centro Italia non sono mai ritornate. Addirittura molte opere di Perugino il Papa pensò bene di lasciarle in Francia, sparse come erano in dei musei minori del territorio francese, perché riteneva che aiutassero, insomma, la diffusione del verbo cristiano. Molti paesi invece, come la Spagna, come l'Olanda, se non ricordo male, occupò proprio con delle truppe il Louvre fino a che non riuscì a riprendersi tutto quello che gli era stato tolto. Quindi bisogna comunque pensare queste manovre di spoliazione come figlie di un tempo in cui l'imperialismo non guardava tanto in faccia a nessuno e il vincitore faceva la storia. Oggi è impensabile, dato il valore che tutti attribuiamo all'arte, appunto un pensiero del genere, però questo è stato, e da questo possiamo anche trarre dei significati positivi, nel senso che appunto abbiamo dei grandi musei che raccontano l'arte, la preservano e la tengono riunita in luoghi in cui tutti possiamo vederla senza dover andare in giro a cercarla nei vari paesi e luoghi di provincia, cosa che tra l'altro è anche bellissima in realtà. Infatti in realtà anche qui si dovrebbe aprire un ulteriore capitolo, però ecco, ruolo di faro che certe istituzioni culturali, museali nel mondo, in Europa hanno, è dovuto anche a questa raccolta che ebbe luogo proprio in epoca napoleonica. Un'uscita in sala di 3 giorni, poi sarà fruibile comunque in seguito? Sì, so che uscirà un DVD in tempi molto brevi, e poi probabilmente ci saranno dei passaggi televisivi, anche se ancora non c'è niente di definitivo. Intanto guardiamocelo al cinema, dato che è così bello ritornare al cinema dopo tanto tempo, è così emozionante. Quindi perché non abbinare a questa bellezza del grande schermo anche il contenuto di un personaggio e di tante storie che hanno molto da raccontare oggi, perché hanno grande attinenza col mondo di oggi. Il documentario Napoleone nel nome dell'arte al cinema dall'8 al 10 novembre 2021. Saluto e un ringraziamento al regista Giovanni Pistella. Grazie a voi, buona visione. A presto. A presto, ciao. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.